fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Per raccontarsi, per raccontare. Siamo finalmente in diretta con, veramente ragazzi, c'è questo studio di Resto Radio Convento. Mi raccomando, parlate vicino al microfono perché queste ragazze sono veramente poco o troppo, non so cosa dire, sono senza parole. Sentite un po' la zeppola perché vi introduco, anzi lo faremo a dire da loro. In questo momento mi stanno distraendo perché stanno facendo selfie, stanno facendo tutto, stanno facendo veramente i cavoli loro, ecco. È bellissimo. Dopo che hanno ballato, mangiato, è il bello della diretta. Allora, a questo punto introduciamo la sorella di Brignano perché arriva da... Ciao a tutti, io sono Chiara e vengo da un paesino tra Roma e Viterbo. Sì? Dici? Fabbrica di Roma. Ah, so benissimo dov'è. Davvero? No, sto scherzando. Allora, e... Io sono laureata in comunicazione e comunicazione multimediale, la radio è il mio sogno. È bellissimo, quindi guarda, ti cedo il microfono, vai avanti tu. Ok, grazie, arrivederci, cioè, benvenuti, buonasera. Posso fare la regia? Io faccio la regia. Dimmi che vuoi fare, introduciamo le altre ragazze. Le presento io? Certo. Okay. Allora, innanzitutto siamo qua questa sera perché è il compleanno della nostra cara Elena, che compie 30 anni. Ciao a tutti! Elena, un passo avanti. No, benvenuti a Miss Italia. Da Salso Maggiore Terme, buonasera. No, qua siamo al ristorante Convento di Leonardo. Scusate, non andate faianza. Siamo sul lago di Garda. Vicino al microfono, grazie. Siamo sul lago di Garda stasera. E adesso andiamo a fare un bel bagno. Certo. Elena è una portatrice sana di occhi stupendi. Grazie, molto gentile. Wow. Non lo dite al fidanzato. Vicino al microfono. No, soprattutto io adesso Arocia che si chiama, mi dimentico. Francesca, per piacere, vai vicino al microfono. No, perché sì. Adesso non io... è che vi scambiate tutti i bacilli. No. Ormai condividiamo tutto. No, perché adesso io e la Fra in anteprima daremo una bellissima notizia. Bello. La nostra cara Elena fra un anno si sposa. Auguri! Auguri! Allora vi aspettiamo qua per fare l'addio al celibato. Nubilato, tutti certo. Al convento. No, io volevo l'addio al celibato. No, l'addio al celibato è quello degli uomini. Che ci facciamo noi? Sì, faccio venire sul mio moroso. Andre, vieni su. E infatti, perché lo vogliamo tentare, perché così siamo sicuri lo mettiamo alla prova. Esatto. Io penso che dopo 10 anni di fidanzamento le prove Andri, sono attenzione. Relativamente poche. Vabbè, non vogliamo indagare. Potrebbe, no. Ecco, sì. Meglio non sapere i dettagli. Quindi Elena compie 30 anni, tra un anno si sposa e poi vogliamo sapere... Poi c'è la Giulia. Ci sta... Le come... bellezze al mio fianco. No, ci sta... Mancano loro due, perché andiamo c'è in ordine Rosa. Di comparizione. Allora, c'è la Rosa... che è la nostra bella Rosa dal capello. Ogni riccio un capriccio. La ricciolona del gruppo. La ricciolona, mi piace, capito? Poi c'è la piccolina. Mi sa tanto da Napoli Gigi. Da Napoli con furore. Poi c'è la più piccolina del gruppo, che è la nostra Stella, che è la sorella della Fra. E poi c'è la Julie, che è la nostra panterona super sexy. Ciao, sono la più vecchia. No. Cioè nel senso MILF, eh? Si può dire. L'età non si dice, ma sembra 18enne, basta questo. Vabbè, siamo intorno ai 30 anni, dai, insomma, no? Non ci siamo facciamo... più o meno tutte lì, dai. Dai, 28, chi più, chi meno. 32, siamo alla No, io ce n'ho 18, bella, se... Non ci allarghiamo. Allora, per gli amici a casa che ci stanno ascoltando in questo momento, che ci ascolteranno durante le nostre registrazioni, sappiate che sono una bomba. Tutti i sensi, capito? Cioè, sta... che mi è scoppiata a mano, capito? A bomba. Io vorrei dire una cosa. Quindi abbiamo detto, ci sta la ricciolona, che si chiama Francesca. Rosa. Domani ti ricordo. Profumo di rosa. No, ma che? Cos'è? Il profumo di mare. Scusate, ho sbagliato. È l'orario. È un po' di confusione, niente di che, dai. Praticamente sono 48 ore che siamo svegli. A Francesca. Poi c'è la Fra. E poi ci sono io. Che sono Chiara. Anche prima. Non cambia. No, non cambio. Elena. Stella. E Giulia. Vabbè, poi dopo mi rinterrogate, ma non sono tanto preparato. Allora, se non ti ricordi i nostri nomi, ti mettiamo due. Aia. Facciamo uno e non se ne parli più. Buon santo. Domani accompagnato dai genitori. E poi, quindi abbiamo sentito Elena, abbiamo sentito Rosa, non ci hai raccontato di Francesca, Arosha. Francesca, Fra. Fammi buona pubblicità, Chiara. La Fra è. La Fra di dov'è innanzitutto? La Fra è di cattolica. È sempre di cattolica. Cioè, niente musulmani, cioè è cattolica proprio. No, noi non siamo di Islam, siamo di cattolica. Ok, vai. La Fra è qualcosa. Come la descrivo? Frizzante. Attenzione. Ma non troppo. Sì. È pétillante, come direbbero i francesi. Chiara, sei ricattabile. No, non sono ricattabile. Come ti posso. Mannaggia. Ti descrivo. Mannaggia la pupazza. No, ti descrivo come. Hai presente la neve? C'è ma non si vede quando scende. Francesca è la stessa cosa. Appaio, scompaio, però è grazie a me che siamo qua questa sera. Ci terrei a dirlo. Un applauso! Ho un grande merito, guarda. Poi passa anche la cassa dopo. Mi raccomando. Sì, poi staccano a segno, tranquilli. Facciamo tra di noi dopo. E poi le taciturne, notturne taciturne. Ma che poi loro sono taciturne solo, cioè, relativamente perché in realtà non. Come l'acqua cheta? L'acqua cheta. Ha capito tutto già. Bravo, ci hai inquadrato. Quindi. Noi facciamo i fatti, balliamo. Infatti, non fosse a vivere come Brudi. Stasera Dante proprio. Si è fermato in tempo. Dante si sta a rivoltare, capito? Dante stasera. La Galeotta e Galeotta. Abbiamo un motto segreto, ma non ve lo diciamo. Alla prossima Venite puntata. Venite a scoprirlo a Cattolica. Vabbè, comunque noi vi aspettiamo a Cattolica. Pubblicità poco occulta. A me mi troverete poco, però ci siamo. Dove ti troviamo? Dove ti troviamo, Chiara? A me mi trovate dappertutto. Al monastero? È prezzemolina. Lei come il prezzemolo, sono dappertutto. È bellissimo. Quindi, detto questo, era 5 minuti di, ma abbiamo sforato abbondantemente. Ciao mamma! Io ti volevo al convento per l'addio al nubilato di Elena. Sì, no, vabbè, ragazzi, mo a parte gli scherzi, questo è un posto fantastico perché si fanno un sacco di cose, ci si diverte tantissimo. Complimenti allo staff. Siamo stati veramente. Ciao, io sono staff. Anche Stefano e Stefanuccio. In realtà vi volevo dire che mentre dicevo Angioletti in console. Sì, Gagliardis. No, in realtà vi volevo dire che mentre dicevo questa cosa mi ha allungato 50 euro sotto il bancone. Prossima serata maggio. Dai, ho detto di non dirlo però. Vabbè, mo mi è scappato. Cioè, ci sta la finanza che ci sta ascoltando, quindi. Tasci sua. Chiara. Stacchetto. Pubblicità. Vabbè che sei Chiara, ma se fa il nero, si fa il nero, capito? Voglio dire. Non fate il nero, per carità, non fate il nero. Ci vengono a cercare qui, ci ingabbiano domani. Sì, buono. Va bene. Allora, vi lascio a voi l'onere e il piacere di salutare gli amici a casa. Potete salutare chi volete. Io non saluto nessuno. Io invece saluto a tutti. Salutiamo allora la nostra bella Catolga, tutti gli amici di Cattolica. Ciao mamma. Della Romagna. E gli amici di, e i nuovi amici di Mirzano. Questo bellissimo. Ciao la mia piccola Susi. No vabbè, salutiamo tutte le persone che ci vogliono bene e a cui vogliamo bene e quelle che non ci vogliono bene, vabbè, non lo dico, però ci siamo capiti. Vi vogliamo bene. E ci vogliamo bene tra di noi, ci dai. Certo. Dai, dai. È importante. Comunque abbiamo fatto un bel pubblico. Ciao a tutti. E intanto piedino a tutti. Ciao, ciao ragazzi. Ciao.